Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, oggi puntata speciale in diretta dalla SMAU, Fiera Campionaria di Milano, ultima frontiera della tecnologia, e noi siamo qui come il diavolo in chiesa a parlare di pallacanestro e lo facciamo molto volentieri. Ciao coach Dan Peterson. Ciao Carlo, buongiorno amici sportivi. Non so quale sia il tuo rapporto con la tecnologia, poi te lo chiedo. Vicino a me, di fronte a me c'è un vecchio amico, indovinate chi? Sono tutti qui i tuoi figli? Sono questi tutti i tuoi figli? David. No, manca il più giovane. Eccolo, David. È lui. Davide Pessina. Buongiorno a tutti. Questa non te l'aspettavo. No, proprio no. Coach, qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Voi fate miracoli con la tecnologia, io sono dall'età delle pietre ancora e quindi complimenti. Sì, però quando mi mandi una mail mi rispondi in un nanosecondo, eh? Quando ti mando una mail mi rispondi subito, quindi vuol dire che sei attaccato al computer. Adesso il mio computer è KO perché il server è andato, nubifragio è venuto in zona, e quindi quando c'è un nubifragio il mio server dice ciao per 3 giorni, mi dicono lunedì si riattacchiamo, una tragedia. Pesco la tecnologia, uno che sa fare. No, non troppo, no. Oh, troviamo qua dentro uno, me compreso, che sa qualcosa di tecnologia. No, l'Italia che vince, coach, o al massimo pareggia, nel calcio 3 vittorie e 2 pareggi, nel basket, che è uno sport più evoluto, che non tollera il segno X, 3 vittorie in Eurolega, siamo partiti forte. 3 vittorie anche sofferte, perché Siena è stata sotto in doppie cifre, Cantù è stato sotto di 4 punti dopo un quarto di tempo, e Milano ieri sera subito era sotto anche di 7 punti, subendo un parziale di 14-0. Quindi tutte le 3 squadre italiane hanno dovuto soffrire, veramente a giocare 40 minuti per avere ragione, però meno male, un po' di rispetto per il basket italiano nel giro in Europa, perché mi scoccia, come dico sempre, avere 5 squadre della Spagna in Eurolega e solo mette 3 dell'Italia, quindi meno male, speriamo di acquisire un po' di punti per il ranking dell'anno prossimo. Davide, te l'aspettavi questo avvio col Tris calato dalle squadre italiane? Bah, ci poteva stare, nel senso che Cantù in casa, chiaramente dopo tanti anni di giocare l'Eurolega, aveva pressione, però con Siena una partita difficile ma affrontabile, l'ha vinta in maniera convincente. Siena aveva una trasferta non facile, però la squadra, diciamo, più esperta, più abituata a giocare questo tipo di competizione. L'incognita era Milano col Maccabi, grande squadra, finalista l'anno scorso, ha giocato una partita solida, per cui direi che sicuramente l'inizio è buono, la strada è lunga, però mi sembra che le 3 squadre italiane siano attrezzate per andare almeno nel top 16. Non so se questo messaggio è rivolto a me, ma non credo. Quando uno vede che l'informazione della radio degli industriali è nelle mani della sinistra anti-industriale, si capisce perché l'Italia ha la frutta. No, non credo sia per me. Comunque, messaggi potete mandarli, magari diversi, su basket 800240024 per le telefonate. Naturalmente siamo qui collegati anche dalla SMAU. Messaggi 349-238-6666, Peter Vescapegui con me in regia, Franco Piantanini in redazione, poi Fabio Cantori in regia, Laura Vanossi in redazione, la sede centrale, insomma siamo in tanti. C'è un messaggio a questo proposito che invece è certamente per coach Peterson, perché lo scrive Omar da Bologna. Per il coach, in prospettiva, Gallinari può arrivare ai livelli di Kirilenko? Oh, guarda, hai toccato un argomento interessante, perché noi Sport Italia abbiamo fatto la partita opening game lunedì sera a CSKA, sì, con Kirilenko a Zalgiris, Kaunas contro Zalgiris ovviamente, e Kirilenko ha fatto una partita assolutamente spettacolare, cioè ha dominato il campo, punti, rimbalzi, stoppate, recuperi, assist e tutto. Però ieri sera a Milano Gallo ha fatto una partita davvero eccezionale, ha subito tanti falli, ha tentato tanti tiri liberi, molto attivo, ha anche qualche rimbalzo dove lui è andato sopra gli altri a prendere, quindi sì, lo può fare, perché è più attaccante di Kirilenko. Kirilenko è un giocatore più versatile, più completo di Gallo adesso, però cioè, chi ha pane non ha denti, in poche parole, anche se tutti e due hanno tanti denti, ok? Quindi assolutamente sì. Senti, un interrogativo che giro prima a Davide Pessina e poi al coach sull'impiego di Gallinari. Io ho avuto l'impressione, allora, in campionato Gallinari viene utilizzato con il contagocce, ha avuto qualche problema fisico, ma non credo sia questo il punto. Credo invece che Scariolo in campionato stia cercando di costruire una squadra, sapendo che di questa squadra alla fine Gallinari non farà parte, salvo lockout, e anche qui nella notte sono arrivate un sacco di fumate nerissime dai palazzi dell'NBA. Però l'impressione è che stia cercando in campionato dove si può perdere, come è successo a Pesaro, quindi stia cercando di costruire la sua squadra. In Eurolega bisogna vincere subito e ieri sera tanto campo per Gallinari, è così, è giusta la lettura, Davide? Sì, io sono abbastanza d'accordo, è chiaro che devono fare i conti col fatto che probabilmente Gallinari se ne andrà, per cui vogliono provare anche a sviluppare il gioco della squadra senza di lui. In Eurolega è più importante vincere subito, soprattutto ieri era molto importante vincere casa contro Maccabi, in più non c'era Mancinelli, per cui secondo me sono aumentati anche i minuti per Gallinari anche per questo. Però io credo che, insomma, Scariolo voglia far capire ai suoi giocatori che non devono troppo abituarsi alla presenza del Galli. Sei d'accordo, coach? Well, a metà, diciamo che può anche darsi, però anche Gallo ha avuto un mini problema, strappo, mini stiramento del flessore della gamba, e quindi anche questa condizionata poi il suo utilizzo in diverse cose. Vediamo più avanti se è veramente segue questa strada qui. E c'è anche la logica lì, perché nessuno vuole allenare due squadre diverse, quindi si prepara per il peggio, in poche parole. Comunque Milano ieri con Erston anche, oltre a Gallinari, una grande partita. Maccabi Tel Aviv, vice campione d'Europa, ha comunque una grande squadra. Una Milano reduce dalla sconfitta di Pesaro, beh, non ti aspetti che riesca a giocare una partita di quel tipo col Maccabi. Come? Oh, yeah, sì, Erston ieri è stato veramente giocatore determinante in campo, cioè il suo ingresso ha fatto punti, poi tutti parlano dei punti di Erston. Lui ha fatto anche qualche recupero, ha una stoppata spettacolare e poi 5 assist. Non solamente il realizzatore che prende la palla, domina la palla, non lo dà a nessuno, no, 5 assist. Però anche bisogna di tutto questo, non so se Davide ha visto la partita in persona, il contributo di Mason Roque ieri sera ha rovesciato lui la partita, ha preso un rimbalzo in attacco impossibile, data la palla a Erston, schiacciata Erston, fallo subito, tiro libero. Cioè, questo è stato per me il gioco determinante della partita, quindi anche ieri Milano ha avuto un ottimo contributo dalla panchina, tutti che sono venuti dentro, anche Melli che ha sofferto in difesa, anche Radosovic che ha sofferto in difesa, hanno dato minuti perché non c'era Mancinelli e quindi tutto hanno portato il piccolo mattone, ma soprattutto ovviamente Mason Roca e Erston hanno fatto veramente, hanno fatto la partita. MVP Erston, secondo per me molto vicino a lui Gallo, e molto vicino a Gallo Mason Roca, tre contributi eccezionali. Grazie coach, alla prossima. Ciao, buon ragazzi, lavoro. Ciao Davide, un abbraccio. Ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao. Arrivederci coach. Ciao coach, ci traffico e poi continuiamo a chiacchierare con Davide Pessina. Palla spicchi. E allora mi spiega perché qui sull'iscrizione ha scritto vedovo? Con scritto? Vedovo. Veneto, forse. Stato civile Veneto? Ah, forse come battuta, dici, è stata una battuta per questi incontri che alla fine è per fare amicizia con delle persone. Tiziana, che fai? Mi aspetti dopo? Tiziana, adesso che ti sei messa in testa? Incontri al buio, sesso, scambi? Ma va, dai! È un gioco di società nato su internet per scambiare quattro chiacchiere, pure noioso, non è che... Caro Davide Pessina, come vedete si diverte quei film. No, questo per dire che la storia di Kobe a Bologna, poi ti chiedo anche il tuo pensiero su questa vicenda, è stata divertente onestamente, compresa la lettera Obama, ma questa del mago a Roma con sovvenzioni softcore più divertente ancora. Sì, veramente, con sovvenzioni fedifraghe. Con sovvenzioni fedifraghe. Poi a quanto pare l'affare non si farà. Bagnai tra l'altro ha detto io non c'entro niente, tutte le cose che sono state dette l'ultimo mese non so nulla, mi tiro fuori da questa storia. No, sarebbe stato comunque, al di là di questo, divertente vederlo a Roma, anche perché sai che Gallinari e Bargnani hanno sempre detto uno chiuderà la carriera a Milano, l'altro chiuderà la carriera a Roma. Poteva essere un assaggio di quello che sarà tra 100 anni, no? Sì, beh, sicuramente sarebbe stato anche per Roma soprattutto un traino importante per portare un po' di gente al palazzo. Purtroppo fino a questo momento non se ne è fatto niente, credo soprattutto per problemi assicurativi di base che costano, insomma, costa molto. Però sarebbe stato non solo dal punto di vista della comunicazione, ma anche dal punto di vista sportivo, insomma, una Milano-Roma, come dicevi tu, con Gallinari da una parte e Bagnani dall'altra, non sarebbe stata per niente male. No, anche perché questa Eurolega, onestamente, settimana lunghissima che è cominciata lunedì con Cesca, come sentivamo prima, e terminerà oggi con Bilbao contro Olympiacos, questa Eurolega non si era mai vista onestamente e probabilmente non si vedrà più per chissà quanti anni con un livello di questo tipo. Sì, perché sono arrivati tanti giocatori, da Tai Lawson in Lituania, Kirilenko di cui si parlava prima, Rudy Fernandez, insomma alcuni soprattutto europei che tornano dall'NBA per tenersi insomma allenati, e questo alza di sicuro di molto il livello, già comunque abbastanza alto di suo. Sì, io di mio sto facendo il tifo contro lo sblocco del lockout, tu no perché stai aspettando l'NBA, però tant'è. Abbiamo un ascoltatore primo di oggi, 800240024, guarda caso si chiama Davide da Trento. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, dica. Ascolti, io volevo farle una domanda proprio sul CSKA e Kirilenko. Ho visto un Kirilenko assolutamente straordinario, dominante, sia come numero sia come presenza in campo. Mentre dall'altra parte giocatori che in NBA fanno una gran differenza, Tai Lawson su tutti, molto sottotono, e invece Sonny Williams che a Toronto è poco più di una comparsa, ho visto giocare una buona prestazione. Come mai un giocatore che, come dire, in NBA ormai è sì buono ma non così straordinario, in Europa riesce a fare questi numeri incredibili e i giocatori che in NBA invece fanno il loro ottimo lavoro sono così sottotono, pur essendo fisicamente, come dire, superiori? Tai Lawson sembra abbia un'altra marcia come passo. Sono due realtà profondamente diverse anche dal punto di vista tecnico, possiamo anche fare il discorso inverso, no? Giocatori che dalle nostre parti non hanno lasciato grandi tracce sono andati nell'NBA e si sono costruiti una carriera. Kirilenko non dimentichiamo che è un giocatore europeo, quindi conosce le due facce, le due metà della mela, no Davide? Sì, beh, sicuramente si mette meno per ambientarsi che non un Tai Lawson. Anche proprio a livello di tecnico, cioè a livello tecnico il gioco europeo comunque è diverso da quello NBA, non solo ovviamente dal punto di vista fisico. Poi secondo me che Kirilenko ha caratteristiche per cui risalta di più in un gioco come quello europeo. Lui è un giocatore di grande fisicità, di grande capacità di fare tante cose sul campo, però secondo me risalta di più ovviamente in un contesto europeo. Poi detto questo, si tratta tutti di grandissimi giocatori. A me Tai Lawson piace molto, credo che insomma ci vuole un attimo perché si abitui al gioco europeo, però secondo me insomma è un giocatore su cui è difficile discutere. Senti, Siena comincia ad essere squadra, no? In questo periodo fa prove tecniche, però quando serve giocare da grande squadra come l'altra sera a Kazan, dove si è trovata sotto anche di brutto e poi è riuscita a rimontare, beh, ti dà già la dimensione della Siena che verrà da qui a 2 o 3 mesi. Sì, non c'è dubbio, per quanto secondo me Siena anche tecnicamente sia una squadra diversa dagli anni scorsi, avrà qualcosa in più su cui lavorare, però è una squadra che se trova gli equilibri è più forte forse anche degli anni scorsi, però ha la mentalità della grande squadra, abituata a giocare su tanti campi difficili e soprattutto andarci con la mentalità della squadra che vuole vincere, sa come si vince anche nelle serate in cui parte male, come è successo l'altra sera, per cui questo insomma dimostra che comunque per solidità mentale la Siena è sempre la solita Siena. Sì, io sto leggendo anche i messaggi nel frattempo, 349-238-6666, parlando di Kobe, strano, credo che alla fine Bologna abbia preso il boomerang di ritorno, che figuraccia, ma io non sono così d'accordo, nel senso che ho sempre detto ammiro Sabatini per aver tentato di scalare l'Everest a mani nude, no? Non so quanti si sarebbero esposti anche eventualmente alla figuraccia al suo posto, quindi ho apprezzato tutto tranne la lettera Obama, che francamente mi ha sembrato un po' sopra le righe, però insomma alla fine si è parlato anche di quello. Sì, secondo me non è una figuraccia, hanno visto la possibilità lontana, ma la possibilità ci hanno provato, adesso non è ancora escluso del tutto, però ovviamente è molto complicato, non si parla più di comunque partite di campionato ma eventualmente di esibizioni, insomma si è parlato del basket italiano anche in America. Come l'avresti visto l'arrivo di Kobe? C'è anche chi dice, pare che in Spagna è uscita questa intervista di Bartomeu, ha detto se in Italia rifanno il calendario per l'arrivo di Kobe Bryant non ammettiamo più le squadre italiane in Eurolega, pare che sia arrabbiato di brutto, non so se abbia detto veramente queste cose, però sì, forse un po' eccessivo anche da questo punto di vista, non lo so, io l'avrei vista molto bene un arrivo di Kobe Bryant, però dipende il fatto come, nel senso cambiare tutto il calendario, obbligare squadra a cambiare sede, giocare non so Varese a Milano in vento, oppure far giocare Roma in 10 giorni andata e ritorno con la Virtus, secondo me era eccessivo, comunque il campionato di Serie A è il campionato di Serie A, Kobe Bryant va bene, se ne sarebbe parlato per mesi, però secondo me è anche giusto che si rispetti il campionato di Serie A. Se poi invece si parla di un discorso di esibizioni, di amichevoli, di partite appunto così spettacolari, allora sarebbe stato secondo me un discorso diverso e probabilmente il modo migliore per riuscire a portare Bryant. Oppure la Virtus dice: io prendo Bryant, non cambiamo niente, va a fare come Milano con Gallinari. Io credo che le esibizioni stiano bene al circo. In Italia è un discorso diverso. Non ci appassioniamo più di tanto. No, però secondo me se riesci a fare un amichevole di alto livello, invento Milano-Bologna di un giovedì che trovi 10.000 persone, 12.000 sì. persone ne porti e vedi una bella partita con insomma Kobe Bryant, io credo che non ci sia niente di male in questo. Mondo è bello perché è vario. Ciro da Napoli che mi scrive: la Juventus può comprare qualcuno con il blackout dell'NBA? Non credo. Napoli può prendere qualcuno. Fabio da Siena, buongiorno. Buongiorno, bentrovati e grazie per la possibilità. Dica. Faccio una brevissima premessa, ovviamente sono di parte, sono di Siena e quindi sono fazioso, ma riguardo a Milano, quanto mi aveva impressionato la prima partita e quanto mi ha tranquillizzato la seconda di campionato, la verità dove sta? Risponde Davide Pessina. La verità sta che siamo alla seconda giornata, una squadra completamente nuova con uno staff tecnico completamente nuovo, Scariolo è arrivato dopo gli europei, è una squadra che deve assemblare tutti i vari pezzi, per cui è ancora l'inizio di un progetto, di un processo che secondo me durerà ancora un pochino, però è una squadra che se mette tutti i tasselli a posto diventa una squadra molto molto forte, perlomeno interessante sulla carta. Credo che, ripeto, sia da lavorare, è una squadra che si deve conoscere, che deve trovare automatismi e meccanismi. Però per l'Armani, chiedo scusa, lo chiamo ancora Armani Gis, per l'Emporio Armani, perdere a Pesaro non è stato secondo me così un male. Meglio adesso che tra un po', insomma, per far capire che comunque c'è ancora parecchio da lavorare, però potenzialmente secondo me è una squadra molto forte. Ma presa così com'è l'Armani, compreso Gallinari, in questo momento sono discorsi un po' stupidi, però è più forte di Siena o è a livello di Siena come organico? Secondo me sì. Può, perlomeno deve provarci fino in fondo, l'anno in cui deve provarci fino in fondo, ha speso tanto, ha cambiato tanto, ha preso top player europei abituati a vincere, mi viene in mente Fozzisse, Nicolas ovviamente che hanno vinto l'Eurolega l'anno scorso, però è una squadra appunto ancora in lavoro, cioè ha bisogno con il lavoro in corso, ha bisogno di conoscersi, di lavorare, di trovare i propri equilibri e i propri punti di forza, però è una squadra che insomma è obbligata a pensare di poter essere come Siena. Cantù invece che sensazioni ti dà? Perché la sottovalutiamo, no? Milano-Siena il duello è questo e poi Trax infila Cantù e va in finale scudetto con pieno merito ed è davvero la squadra artigianale che gioca la miglior pallacanestro d'Italia, no? La squadra industriale non ha grandi mezzi eccetera, eccetera. Ha un buon budget perché non stiamo a raccontare che Cantù il budget non ne ha, eccetera. Cantù ha un discreto budget, fa uno splendido lavoro a questa squadra che è un piccolo gioiello che adesso giustamente gioca in Eurolega. Secondo me a Cantù non dispiace che tutta l'attenzione continui a essere su Siena e Milano, continuano a lavorare, sicuro. Lavorano bene e poi rispetto a qualche anno fa dove prendevano giocatori buoni, li lanciavano e poi insomma, andavano da altre parti, è riuscita a mantenere questo nucleo da 2 anni e questo è sicuramente un grosso passo avanti. Trinchieri è un allenatore giovane, ambizioso, molto bravo, sta facendo lavorare bene la sua squadra, hanno preso Molin come vice che in Eurolega non solo, è ovviamente un valore aggiunto notevole, sta aggiungendo giocatori, io credo che Cantù insomma sarà una squadra con cui sia Milano che Siena, comunque chi vuole vincere deve sicuramente fare i conti da qui alla fine, perché loro non regaleranno niente e dovessimo ritrovarcela in finale non sarebbe una grossa sorpresa. Poi tutto questo detto a metà ottobre, sì, certo. Può succedere di tutto. Palla spicchi. Ecco che torniamo insieme, sempre vicino a me Davide Pestina per questa puntata di Palla a Spicchi, c'è un ascoltatore Silvano da Milano che interroghiamo subito. Buongiorno. Sì, ciao Carlo, ciao coach. Ciao. Volevo chiedere un'informazione, che prospettive date secondo voi a Varese quest'anno? L'anno scorso è stata una stagione discreta, è stato un progetto nuovo, tutto sommato per la nostra pallacanestro, volevo sapere un po' che cosa ne pensavate, diciamo, delle prospettive quest'anno, mi scusate la radio, ciao. Sì, grazie Silvano. Non so se Davide Pessina voglia fare il coach. No, attualmente no. No, per il momento no, non se ne parla. Non segui le orme del nostro amico Sasha Djordjevic. No. A proposito, l'ho sentito l'altro giorno, dopo la vittoria. Carico con la molla. Domenica sera con Stefano Valenti nel Palla Spicchi serale lo elogiavamo per l'impiego chirurgico di Becirovic. Solo a uno come lui poteva venire in mente di fare la squadra offensiva e quella difensiva. Becirovic entra 10 minuti, fa 13 punti, vince la partita e poi insomma è lì che fa dentro e fuori dalla, dalla panchina in attacco, dentro Becirovic, le linee, le linee dell'hockey le linee dell'hockey. Cosa ne pensi di Varese? Che sia, credo sia una buona squadra, un grande allenatore come Recalcati, una società che diventa sempre più solida con tutto il discorso dell'azionariato. Credo che insomma sia una Varese come l'anno scorso, come obiettivo cercare di salvarsi il più presto possibile per poi provare una zampata magari per raggiungere i playoff. Ert è un giocatore giovane che può crescere, però oggi si è già visto molto spettacolare della prima azione della partita con Milano, sì, per esempio, sì. Poi aveva tirato male, ha tirato molto meglio invece l'altra domenica, una squadra anche questa con alcuni giocatori nuovi, deve trovare equilibrio, però secondo me è una squadra solida, insomma vincere la Varese non sarà facile per nessuno. Arrabbiato a Roma perché abbiamo fatto sentire quel pezzo di film su... tutti, sono tutti bravi a parlare, a giudicare, ma non c'è stato nessuno, nemmeno tra le istituzioni, a farsi avanti per sponsorizzare la squadra di basket della capitale, che da quasi due anni non ha uno sponsor. Ma io son favorevole ad Ashley Madison come sponsor, ma pecunia non olet, per rimanere al latino, a tu jeans a tu c'è stato, no? Sì, sì, sì. Beh, ma secondo me però forse è più politicamente corretto un profilattico che non un che non un sito di, come dire, tradimenti, però insomma, sai, se mi sembra polemica anche questa, però pecunia non olet, esatto, come sì, dici tu. No, ma a proposito di questa gerarchia del campionato, insomma, io sto cercando di farlo, è molto presto, dietro Siena, Milano e Cantù c'è un mare magno di 5-6 squadre che sono in cerca di autore. Una poteva essere Montegranaro, poi gioca a Varese, prende 100 punti e qualche domanda me la faccio, insomma. Sì, beh, oppure può essere la Virtus Bologna, può essere la Benetton, può essere Pesaro, che comunque ha giocato una partita solida contro Milano. Sono dietro, sì, ci sono queste squadre che non sai, possono fare veramente una buona stagione, ci sarà la sorpresa tra queste. Io credo che insomma l'equilibrio ci sia, a parte le primissime. Anche in fondo, non so come dire, per la retrocessione è difficile riuscire a indicare con sicurezza una squadra. Sassari continua a lavorare bene, da spettacolo, i due cugini giocano che è un piacere insieme, i Diner. Poi Avellino, una squadra che dice, ecco, è andato via anche trauma, non ha problemi, adesso prendere Osley, sicuramente un rischio, lo conosciamo, un giocatore abbastanza altalenante, però se si trova, diciamo, coinvolto bene, è un giocatore che può fare anche la differenza. Per cui Caserta è una squadra che può crescere, secondo me. Difficile riuscire a trovare veramente sotto, secondo me, le prime tre, che in teoria dovrebbero essere un gradino sopra, trovare le concorrenti, perché davvero basta perdere una o due partite o vincerne una o due e diventa... Sì, cioè, non so se hai visto Cantù. Ho visto a pezzi. C'è Luca che ti chiede se Cantù ha vinto solo per i pessimi tir liberi di Nancy, cioè per le pessime percentuali di Nancy ai tir liberi. Mi sembra un po' semplicistico, no, come spiegazione. Sì, è riduttivo. Ha vinto perché è una squadra solida, ha vinto perché comunque il palazzo di Desio si è riempito di gente, come sempre i canturini partecipano molto, quindi questo dà anche una mano alla squadra nei momenti difficili. Ha trovato questo giovane georgiano che ha fatto delle cose che non ti aspetti, per cui secondo me insomma ha vinto una partita come probabilmente ne vincerà altre in questa Eurolega, con le unghie e con i denti, lottando, cercando di imparare di volta in volta, perché comunque l'impatto dell'Eurolega rispetto al campionato è diverso, si sente, certo, soprattutto certo, fisicamente. E poi bisognerà vedere, ecco, Cantù la meno abituata forse di tutte al doppio impegno. Il doppio impegno può essere una cosa che ti stanca molto. Certo. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Io vi faccio sentire una dichiarazione di Scariolo di ieri sera dopo la vittoria di Milano sul Maccabi. Non dobbiamo pensare di essere migliori di nessuno, nel senso che è un passo avanti, ci sta, una partita emotivamente di grande qualità, ne abbiamo battuto i vice campioni d'Europa, ma questo non vuol dire che adesso dobbiamo pensare di essere i vice campioni d'Europa noi, cioè gli alti e bassi ci accompagneranno senz'altro per diverse settimane ancora, ci sono giocatori che hanno ancora abbastanza pochi giorni di lavoro e di convivenza tecnica e anche umana, se vogliamo, con gli altri, per cui andiamo avanti. L'importante in Eurolega è andare avanti vincendo, perché effettivamente con il girone che abbiamo le partite in casa sono estremamente importanti. Ovviamente il suo minutaggio dipende dalla crescita di condizione e naturalmente dal fatto che avevamo un giocatore meno di rotazione. Per il fatto che sia partito dall'inizio dipende dall'assenza di Stefano. Ripeto, oggi stanno riuniti, magari fra due ore ci dicono: "Ala, lockout, finito." Per cui anche qui voliamo bassi e stiamo belli schisci che non c'è da, no? Voliamo bassi e stiamo belli schisci, uno scariolo alla milanese. Sì, sì, sì, sì. Dopo 15 anni in Spagna però si ricorda, insomma, le sue origini lombarde, diciamo. No, io vedo sugli sms in furia la diatriba televisiva, c'è chi dice beh, adesso vediamo un po' di partite in chiaro, e c'è chi, sono sinceramente, almeno dall'esiguo sondaggio che possiamo fare, in maggioranza quelli che rimpiangono Sky, commenti eccetera eccetera. Poi qui è questione di gusti. C'è invece Bianchini, avrei sentito... Stasera le lezioni di basket sulla 7 a tarda notte, 23:05, dopo Crozza. Arriva il Vate e spiega il basket al popolo. Beh, è persona di grande cultura, di grande capacità dialettica, per cui sarà molto interessante seguirlo. Un uomo di enorme cultura nella pallacanestro da sempre, insomma, credo che sia Valerio Bianchini uno dei grandi, come dire, valori del nostro sport. Il fatto che comunque sia una TV in chiaro, comunque accessibile a tutti, si possa vedere questo magazine, è una cosa promozionale molto importante per il basket. C'è chi scrive: Schermadini, neocanturino, non vi sembra il sosia di Mr. Bean? Sì, però la custodia più che il sosia, ci sta dentro tutto Mr. Bean. Ci sta due. E invece, più seriamente, Michele da Valenza, a proposito, c'è chi scrive Luigi da Venezia, allora Venezia è già retrocessa. C'è chi, Michele da Valenza, chiede un parere su Casale, sono due nuove realtà della Venezia che riporta in Serie A la sua lunga storia, e sappiamo bene questa vicenda. Casale, che invece è appena arrivata, Marco Crespi ha parlato di servono sorriso e sofferenza, speranza, ha usato molte S. Intanto io uso una P, hanno un palazzetto che sono riusciti a ristrutturare in tempo per giocare prima di campionato, e questo mi sembra una gran cosa. Ma Casale è una squadra totalmente nuova, una squadra che è appunto una piazza anche totalmente nuova, sta pagando un po' secondo me lo scotto del noviziato. È andata a Sassari, è andata male, ha perso in casa con Cremona, però è una squadra in crescita. Crespi è un allenatore che ha già vissuto ovviamente la pallacanestro non solo di Serie A ma di altissimo livello, per cui sa cosa si deve fare, si deve avere pazienza e si deve continuare a lavorare. Venezia mi sembra una storia leggermente diversa, anche una squadra un po' più esperta. Mazzon è un altro allenatore che conosce molto bene, a Clark, che è un giocatore che ha giocato nei massimi campionati europei, per cui mi sembra un pochino più avanti Venezia rispetto, per quanto abbia dovuto fare la squadra insomma all'ultimo momento. Per cui sono due squadre che, come tutte le matricole, all'inizio devono un po' vedere dove sono finite. Poi sappiamo, il nostro campionato, ti serve un americano lo prendi, ti serve un altro giocatore lo prendi, quindi si fa anche in fretta a cambiare in corsa. A cambiare in corsa e a sistemare certe esigenze. Palla spicchi. Eccoci di nuovo qui con Davide Pessini in diretta dalla SMAU, fiera campionaria di Milano, per il gran finale di Palaspicchi di oggi. C'è Ercole che scrive: il vero sosia di Mr. Bean è Bavcic di Cremona, anzi, da come ha giocato finora forse non è il sosia ma è proprio lui. Matteo, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a Pessina. Dica. Volevo sottolineare il coach Trincheri, perché è molto bravo ad allenare, la sua squadra è bravissima, ma soprattutto nelle sue interviste non è mai banale, fa un po' il sociologo, insomma, quindi è un po' il predicatore, molto bravo a parlare del Trinche. Molto bravo, e secondo me anche per motivare i giocatori è la vera novità del basket, dopo Penezzani, che vabbè, è il top. Coach Trincheri è bravo, insomma, ecco, volevo dire questo perché almeno è un personaggio positivo. Certo, non ha ragione Matteo, beh, novità neanche tanto ormai. Ha vinto anche qualcosina. Sì, poi in Lega 2 allenatore dell'anno, allenatore dell'anno due volte in fila Serie A, un allenatore giovane, un allenatore non banale, che non ha paura anche di prendersi responsabilità. Sa dove mette gli Oscar? Sei in bagno come qualche attore sulla mensa del camino. Esatto, glielo chiederemo. No, però è anche, voglio dire, così ti esponi anche, perché lui ogni tanto fa queste dichiarazioni che sono, come dire, energia per il pubblico avversario. E lui in realtà, secondo me, fa bene. Insomma. Certo, a noi ci piace. A noi ci piace. A noi ci piace. Flavio Tranquillo, buongiorno. Ciao Flavio. Buongiorno. Regalami subito un commento sulle prime battute di Eurolega e su un'Italia che è, insomma, gonfia al petto. Tre partite su tre, se ci mettiamo anche quelle del calcio che sono andate bene in settimana, vabbè, camminiamo con la testa alta, sportivamente parlando, solo sportivamente parlando, ahimè. Ma diciamo, in generale sull'Eurolega molto bene l'inizio, visto la partita del Cesca, onestamente sarebbero cadute tante squadre NBA con le regole europee sotto i colpi di quella squadra leggerissima, bellissima, poi una squadra proiettata 10 anni avanti con l'ala piccola di 2.15, il centro di 2.15 che cambiano, una roba notevole. L'Italia bene, Milano ovviamente ha fatto un risultato che le dà credibilità istantanea ed è fondamentale, però non sottovaluterei come Siena ha vinto in un campo difficile, in una trasferta impossibile contro una squadra rognosa andando sotto di 11 nel primo tempo. Questa è una squadra che vince al di là quasi della propria volontà, direi a sua insaputa. Vince a sua insaputa non è male. Intanto è caduto il primo allenatore a Kaunas dopo la sconfitta con il Cesca, che come dici tu avrebbe battuto anche qualche squadra NBA. Beh, lo Zalgiris ha licenziato Zouros ed è quindi il primo coach che salta quest'anno, e Zamparini è un dilettante, Flavio. Zamparini è un dilettante, ma soprattutto direi ha giocato una buona partita. Lo so che è paradossale dirlo, perde in casa di 13, sei sotto tutta la partita. Io credo che lo Giacchi abbia giocato una buona partita, io credo che la Grecia abbia giocato un buon europeo. Poi se l'unico metro di ragionamento deve essere vincere o perdere, allora si può mandare via l'allenatore. Non conosco Zouros, non ho questo piacere, però ripeto, ho visto giocare le sue ultime due squadre e giocava una pallacanestro bene, con delle idee, parere veramente di quello che passa per strada. Sì, anche perché dopo un pugno di partite è un po' difficile, Davide. No, sì, è impossibile. Quindi sì, cioè, no, troppo presto. Poi giochi col Cesca, che secondo me è la più forte squadra in Europa. Beh, se continui a giocare a questo livello diventa difficile pensare di riuscire a batterlo. Un altro discorso che invece volevo fare con voi, che è un discorso che mi sta a cuore, è questo. Dovete spiegarmi, Flavio, comincia tu, perché l'Eurolega continua ad insistere sulla necessità di grandi arene nell'Europa dei canestri, però io vedo un sacco di vuoti, un sacco di spazi bianchi in giro, compreso l'altra sera a Kaunas, compreso a Kazan dove ha giocato Siena, comprese le partite che si giocano in Grecia. Solo in Spagna vedo pochi seggiolini. Ma sul motivo dei vuoti ovviamente non ci so essere preciso. Sull'insistenza dell'Eurolega sul 10.000 come limite minimo della capienza, io credo che sia necessario ma non sufficiente, ovvero sia se vogliamo fare un'Eurolega di un certo tipo diventa necessario avere delle arene da 10.000, poi che siano 9.000, 8.000 e non so trovare, però delle arene di un certo tipo. È ovvio che limitarsi a dire il limite è 10.000 non risolve da solo il problema, ci vorrebbero anche delle azioni, non solo e non tanto per non avere i vuoti che poi possono essere riempiti in maniera diversa, ma per crearsi uno zoccolo duro, perché non possono non esserci 10.000 persone in 24 città che vogliono vedere quello che si è visto a Mosca o a Milano. Cito due partite che ho visto in questa settimana, mi rifiuto di crederlo, anzi sono sicuro del contrario, è che bisogna trovarle. Davide, e portarle, sì. No, io credo che il concetto di avere arene nuove, grosse, moderne, ospitali e via discorrendo sia necessario, sì, sia insomma un modo di cercare di avvicinare il futuro. Da questo poi bisogna riempirle, le riempi secondo me con comunicazioni, con squadre forti, con una pallacanestro di alto livello. Quest'anno secondo me in Eurolega si potranno vedere, come negli anni scorsi, forse anche di più, ma partite davvero. C'è un lavoro da fare sul territorio anche, ma credo che ogni società debba farlo, ogni squadra debba farlo, sia in Italia che all'estero, poi ognuno a modo suo con le sue dinamiche, diciamo. Però insomma il fatto che si debba giocare in arene nuove di un certo tipo, belle, accoglienti, ospitali, con anche magari nel contorno cose che possano intrattenere la gente, credo che sia giusto dover perseguirlo. Certo. Flavio, 30 ore di trattative e un sacco di fumo nero dai palazzi dell'NBA. Adesso si parla di un mediatore federale. Io e Davide Pessina dicevamo prima serve il negoziatore Kevin Spacey. No, però non si vede la fine di questa, non si vede onestamente la fine di questa storia. A questo punto magari qualcuno comincia a pensare, bah, questa Eurolega magari ce la giochiamo fino alla finale con Gallinari, Kirilenko, Farmar, Ty Lawson e tutti gli altri, che Rudy Fernandez e magari quelli che arriveranno. Beh, onestamente onestamente non mi sembra un modo di procedere correttissimo dal punto di vista logico, nel senso che poi oltretutto se volessimo andare dietro a questa ipotesi, allora la finale la giocherebbero poi Wade, LeBron James e Bryant, forse uno contro l'altro, tutti e tre insieme. Mi fermerei un attimo, soprattutto diffiderei dal cercare di utilizzare delle categorie a noi familiari, ma a loro intesi come americani, non familiari dal punto di vista della normativa, delle abitudini, degli usi, del costume, eccetera, eccetera, per interpretare questo lockout. Diciamo che ieri si è chiusa una fase al 99%, ovvero sia la fase in cui l'NBA diceva se accettate le nostre aperture, quelle che noi consideriamo delle aperture, riusciamo ancora a salvare una stagione da 82. Adesso la stagione da 82 ce la scordiamo, però che dalla stagione di 82 si passi alla stagione da zero è una visione che secondo me ci viene trasmessa da chi vuole mettere pressione sulla controparte, e sono tutte e due le parti. Dobbiamo, lo so che è difficile, ma dobbiamo stare alla finestra, noi siamo fuori, lo dico per l'ennesima volta, quello che sentiamo sono solo balle, se vogliamo parlare in francese, e quindi ogni giorno reagire in maniera esagerata a una delle balle che ci capita di sentire, secondo me è proprio sbagliato come logica. Sì. Grazie Flavio, sentiamo domenica. Grazie a voi, divertitevi. Ciao. Alla prossima. Il divertimento è quasi finito, un minuto. Come la vedi tu sta storia del lockout? Io la vedo o che del blackout, per usare del blackout, così, sì. No, la vedo come diceva giustamente Flavio, probabilmente sicuramente le 82 ce le siamo dimenticate, saranno cancellate altre settimane. La mia impressione è che credo che prima o poi si partirà, però a questo punto si debba preparare un'attesa non così breve, nel senso che anche quando cominceranno a perdere i giocatori, nel senso che non arriveranno gli assegni, secondo me perderne uno, perderne due cambia poco. Allora diventa veramente una questione di metterci d'accordo sulle virgole, su tutto, per una questione di principio. Per cui secondo me ci vorrà un mese e mezzo. Non so, secondo me prima di gennaio è difficile che parta, però non posso pensare che non la facciano partire, perché c'hanno troppi soldi in ballo. Troppi soldi in ballo, le TV ci sono. Una follia. È un'industria colossale. Una follia. Io dall'inizio penso a una stagione come quella del 98-99, se non ricordo male, con 50 partite. Partita dallo Star Game più o meno. Partita da gennaio. Da quel periodo lì. Probabile, sì, perché secondo me adesso, visto che allora vogliono fare muro contro muro, partire a il 15 dicembre o il 15 gennaio, secondo me i giocatori o gli altri non cambia più. Non cambia moltissimo. Perdere Natale sarebbe non una bella cosa per l'NBA, però secondo me adesso c'è da mettersi lì a aspettare. Bene Davide, alla prossima. Alla prossima, quando volete. Grazie davvero a Davide Pessina, Peter Bescapè in regia qui insieme a Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadore, Laura Vanossi. Grazie a tutti, ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 5.